La relazione di Silvia ha dato numerosi spunti che fanno sponda rispetto a quello che potrei e dovrei dire io. Io non mi occuperò tanto di storiografia quanto della concezione della storia che viene sviluppata all'interno del mondo islamico. Perché questa concezione della storia ha dei parametri e dei modelli che sono evidentemente diversi rispetto ai parametri e ai modelli dell'Occidente. Qui abbiamo implicitamente il discorso con cui concludeva Silvia un minuto fa, cioè abbiamo implicitamente un ragionamento politico di critica dall'interno e dall'esterno della società, degli schemi di pensare, degli schemi anche di fare storia, ma degli schemi di fare economia, di fare politica del mondo occidentale. Perché l'Islam si presenta da diversi punti di vista, e questo è un aspetto di cui molti studiosi islamici sono perfettamente coscienti, come una realtà alternativa rispetto all'Occidente, che vuole e specificatamente pretende di essere una realtà alternativa rispetto all'Occidente. E la concezione della storia, che cercherò di dire brevemente, viene sviluppata all'interno del mondo islamico, va indubbiamente in una direzione di questo tipo. Prima però di arrivarci e di articolare il mio ragionamento in una serie di punti, vorrei fare alcune osservazioni che mi sono state sollecitate da quanto diceva Silvia e che sono anche in parte banali. C'è una banalità ovvia: i tempi della storia secondo i tempi della cronologia, cioè il calendario musulmano è un calendario lunare e non è un calendario solare. Quindi il calcolo del tempo e il calcolo della determinazione cronologica degli avvenimenti umani, se calcolata da un punto di vista musulmano, non obbedisce alle stesse regole, c'è una discrasia di fatto tra gli anni. Questa può essere un'osservazione del tutto banale, ma non è banale nella misura in cui, evidentemente, fin dall'inizio i musulmani hanno deciso di calcolare il tempo secondo delle categorie che non sono le categorie dell'Occidente. Certo, voi se prendete un giornale arabo contemporaneo trovate entrambe le definizioni cronologiche: la cronologia after death, dopo Cristo, e quindi il 2009, e la cronologia islamica che è il 1487, adesso non dovrei fare i calcoli, mi sfugge, però voglio dire due cronologie diverse perché ci sono due modi diversi di concepire il determinarsi del tempo e la cronologia dell'Islam parte dalla nascita della comunità islamica, cioè l'anno zero del calendario islamico non è l'anno della nascita o della morte di Muhammad e nemmeno l'anno in cui Muhammad avrebbe cominciato la predicazione, ma è l'anno dell'Egira, cioè del trasferimento da Mecca a Medina che segna la nascita della comunità musulmana. E il fatto di segnare la nascita della comunità musulmana implica inevitabilmente una sorta di autoconsapevolezza, cioè una sorta di percezione di essere qualcosa di diverso rispetto all'esperienza storica e evenemenziale che era accaduta precedentemente. Questa è una prima osservazione. Una seconda osservazione, è stata citata da Silvia, è la questione dell'orientalismo, cioè che mi era venuto in mente di accennare. L'orientalismo di Edward Said, a prescindere dal fatto di aver letto o meno il libro, ma l'importanza della ricerca di Edward Said e della proposta provocatoria di Edward Said è quella di scardinare quella che Silvia chiamava la reductio ad unum, cioè il tentativo di univocizzare, di rendere omogeneo, di rendere univoco, di rendere universale il concetto di storia, il concetto di democrazia, il concetto di diritti umani, il concetto di libertà, il concetto di politica, il concetto di determinazione economica, su tutti i mondi extraeuropei, tra cui anche ovviamente il mondo islamico, e il discorso sull'orientalismo è un discorso che porta a scardinare taluni elementi che conducono a questa univocità, perché naturalmente l'orientalismo implica, riflette sul fatto che la scienza dell'altro è una scienza del dominio dell'altro. Allora, se noi denunciamo che la scienza dell'altro è una scienza del dominio dell'altro, possiamo arrivare al punto di sollecitare una rivoluzione, di sollecitare una rivolta, di sollecitare un'opposizione, di sollecitare una alternativa appunto dell'Islam rispetto all'Occidente. Una terza osservazione preliminare riguarda la differenza che esiste tra classicità, modernità e futuro nel mondo islamico. C'è un pensatore egiziano contemporaneo che si chiama Hassan Hanafi, che è stato anche ospite della nostra università un paio di volte, ha tenuto delle conferenze qui in statale. Questo Hassan Hanafi, studiando comparativamente la storia dell'Occidente e la storia del mondo islamico, nota che ci sono state delle specie di parabole che, allorquando c'è stato l'emergere del mondo islamico, ha visto la decadenza del mondo occidentale; quando c'è stato l'emergere del mondo occidentale, ha visto la decadenza del mondo islamico. Quello che noi chiamiamo Medioevo, che ovviamente non è Medioevo per i musulmani, perché i musulmani non avevano un'età classica tipo la Grecia e Roma, che stesse preliminarmente alla rivelazione muhammadiana e alla estensione del dominio degli arabi e dei musulmani. Quello che per l'Occidente era il Medioevo, che Hanafi chiama secoli bui dell'Europa, non è vero, lo sappiamo benissimo che storiograficamente non è vero, ma qui c'è un discorso politico, c'è un discorso politico di identificazione, c'è volutamente la necessità di dare un'interpretazione e una lettura politica a quello che si propone. E quelli che sono i secoli bui dell'Europa sono per Hanafi i secoli del trionfo dell'Islam, della superiorità sociale, politica, civile, scientifica, filosofica, culturale dell'Islam, che raggiunge il suo apogeo tra il X e il XII secolo. Poi, quando comincia l'età delle rivoluzioni, dal Rinascimento in poi in Occidente, poi la rivoluzione scientifica, la rivoluzione industriale, la rivoluzione francese, sono i momenti in cui c'è la crisi del mondo musulmano. L'Europa dominerà sul mondo musulmano, l'Europa dominerà su tutto l'universo del globo, ma per realizzare tutto questo porterà il colonialismo e l'imperialismo nel mondo musulmano. Questo momento di crisi del mondo musulmano si rovescia in età contemporanea, e quindi Hanafi vede nel risorgere dell'Islam contemporaneo il segno della decadenza dell'Occidente. Quindi l'Occidente sta entrando in una fase di regressione e in una fase di evoluzione, il mondo musulmano è in fase di crescita, e secondo questo, come posso dire, questo movimento a onda della realtà storica, i prossimi secoli vedranno un ritorno dell'Islam e il riprecipitare dell'Occidente nei secoli bui. Quindi voi potete immaginare quanto questa proposta sia una proposta ovviamente provocatoria, che serve terzomondisticamente a sollecitare la riappropriazione da parte del mondo islamico e in genere da parte dei paesi afroasiatici del loro ruolo soggettivo all'interno della storia. Perché il fine di Hanafi è proprio quello, cioè consentire ai popoli afroasiatici e in particolare ai popoli islamici di diventare, di ridiventare soggetti e protagonisti della realtà storica, finché negli ultimi tempi, poiché negli ultimi tempi questo ruolo di soggettività e di protagonismo della realtà storica è stato svolto dall'Occidente ed è stato svolto dall'Europa. Quindi vedete che ci sono, che c'è una riflessione sui tempi della storia, che è una riflessione che presuntivamente vuole suggerire una teleologia della storia che va nella direzione di una diminuzione o di un annullamento di questa univocità, di questa reductio ad unum, di questo eurocentrismo, di questo occidentalocentrismo, per cui la democrazia pensata dall'Occidente è l'unica democrazia possibile, per cui il sistema liberale, liberista, capitalistico messo in pratica dall'Occidente è l'unico sistema economico possibile, per suggerire o per tentare di suggerire delle vie d'uscita che non sono evidentemente occidentali. Una quarta osservazione sta in riferimento a un altro pensatore e storico, questa volta musulmano contemporaneo, cioè Abdallah Laroui, che è un marocchino professore all'Università di Rabat, il quale ha scritto una storia del Maghreb, una storia del Maghreb medievale, per contestare la storiografia coloniale. Cioè, in riferimento a storici, soprattutto francesi, come Julien Terras, che avevano individuato nell'Islam, per esempio, in una involuzione interna del Maghreb, ciò che avrebbe poi nel tempo condotto il mondo musulmano e il Maghreb ad essere colonizzato nei confronti dell'Occidente, ha visto una lettura appunto coloniale, orientalistica, una lettura politicamente e teoreticamente indirizzata della storia del mondo arabo e del mondo magrebino in particolare, che deve essere smontata, che deve essere distrutta, che deve essere contestata dall'interno per proporre una storiografia che è una storiografia propria dei popoli musulmani, che è una storiografia propria dei maghrebini in particolare e della storia del Maghreb in particolare, che è quella di Abdallah Laroui. Ecco, queste sono sollecitazioni che indicano come ci siano diversi tempi della storia e diverse sensazioni e percezioni della realtà e dell'evoluzione della storia che vanno più o meno nella direzione che aveva indicato Silvia prima. Per quanto riguarda poi, per entrare poi nel merito sostanziale del discorso, per quanto riguarda poi la concezione della storia nell'Islam, io volevo soffermarmi su cinque punti. Devo farlo con una certa sinteticità, perché evidentemente se no ruberei troppo tempo, ma mi limiterò a dare degli accenni, però degli accenni che mi sembrano importanti per comprendere la visione che della realtà storica e della percezione dell'essere del mondo hanno i musulmani. Innanzitutto la differenza che esiste tra il Corano e la Bibbia relativamente alla determinazione storica, perché naturalmente il Corano è fondamento della cultura musulmana, la Bibbia, non stiamo a fare differenza tra la Bibbia ebraica e la Bibbia cristiana, parliamo dei testamenti nella loro genericità, la Bibbia come fondamento, e su questo anche un tendenzialmente un laico come me non può che convenire, come fondamento di buona parte della società e della civiltà e della storia dell'Occidente. Qui noi abbiamo una differenziazione che io vi propongo come riflessione particolarissima, perché la Bibbia è opera storica ed è stata volutamente scritta e composta come opera storica per narrare la storia del mondo ma soprattutto per narrare la storia della salvezza incarnata vuoi nel popolo ebraico, se guardiamo l'evoluzione della storia della Bibbia ebraica, vuoi in Cristo come colui che è venuto a fondare una nuova società, oltre che a salvare gli uomini e a purificare gli uomini dai loro peccati, ma comunque la narrazione che voi trovate nei libri biblici, nell'Esodo, nei Numeri, nella Genesi anche, partendo dal Genesi, nell'Esodo, nei Re, che voi trovate anche nei Vangeli canonici, sono sostanzialmente narrazioni storiche che si pongono un obiettivo, l'obiettivo di dimostrare qual è l'evoluzione della storia e che in quella direzione costruiscono il racconto biblico e il racconto della vicenda sacra del mondo e dell'umanità. Questo non succede nel Corano, perché il Corano non è un libro storico. Il Corano è un libro che dà un'impressione di frammentarietà, che non narra delle vicende sistematiche e anche quando affronta le storie dei profeti non lo fa in maniera sistematica. Perché il Corano non vuole essere un libro storico, ma vuole essere un libro che sta nella storia. Qual è la differenza? La differenza è che mentre la Bibbia, volendo essere un libro storico, narra le vicende della storia dell'umanità o delle vicende della storia del popolo ebraico, il Corano si pone, secondo quello che è uno dei nomi del Corano, come un furqan. Il termine furqan in arabo significa discriminante. Quindi il Corano scende nella storia come qualcosa che discrimina tra il prima e il dopo, come qualcosa che discrimina tra il dentro e il fuori, come qualcosa che discrimina tra il vero e il falso. Quindi non è tanto la narrazione di effetti, di avvenimenti, di realtà storiche, quanto la narrazione di un furqan, di un discriminatorio, di un qualcosa che scinde, che spezza, che faraca, che divide tra il prima e il dopo. E quindi in questo senso scende profondamente all'interno della storia. Il Corano narra i giorni di Dio, non narra tanto i giorni degli uomini quanto narra i giorni di Dio. E naturalmente proponendosi come furqan e come differenziazione tra il vero e il falso, tra il prima e il dopo, tra il dentro e il fuori, è evidente che il Corano costituisca il punto di riferimento anche per quanto riguarda la riflessione storica per tutti i popoli musulmani. Naturalmente tenendo presente che la volontà e il determinarsi della realtà divina è prevalente rispetto, per questo è caratteristico della società e della cultura islamica, è prevalente rispetto ad altri tipi di determinazione. Per quanto riguarda, voi sapete che gli altri due punti riguardano in generale quello che potrei dire essere l'atteggiamento storico o storicistico predominante tra sunniti e sciiti. Voi sapete che l'Islam si divide in queste due grandi famiglie, la famiglia maggioritaria che è quella dei sunniti, che comprende circa il 90% dei musulmani, e la famiglia minoritaria, a sua volta articolata in molte altre sette interne, imamiti, ismailiti e a loro volta gli ismailiti, ramificati in diverse sette interne, gli nizari, i bohoras, i mustali. Quindi c'è tutta una ramificazione settaria, una ramificazione e una determinazione settaria all'interno del mondo musulmano che compongono circa il 10% della popolazione islamica. Ora, sciiti e sunniti hanno una concezione della realtà storica fondamentalmente diversa. In questo senso, gli sciiti hanno prevalentemente una idea teleologica della storia, cioè l'idea di una storia che si proietta verso il futuro. E questo perché? perché gli sciiti attendono il ritorno dell'imam. Secondo la concezione sciita, l'ultimo dei, io parlo degli sciiti maggioritari, cioè degli sciiti duodecimani, che sono quelli attualmente al potere in Iran con Khomeini, a cui fanno riferimento i partiti sciiti in Libano come Hezbollah o Amal, o Muqtada al-Sadr piuttosto che Ali al-Sistani nell'Iraq meridionale. Quindi gli sciiti duodecimani o imamiti. Secondo gli sciiti duodecimani o imamiti, l'ultimo discendente di Ali, il dodicesimo discendente di Ali, è nascosto e miracolosamente tenuto in vita da Dio in un luogo sconosciuto, in attesa che egli ritorni alla fine dei tempi come Messia, e il termine arabo è Mahdi, cioè il ben guidato, colui che ritornerà come Messia alla fine del tempo. Allora la concezione sciita è una concezione fondamentalmente teleologica perché è carica di spirito escatologico, è carica di spirito escatologico nell'attesa del ritorno del Mahdi, che si chiama Muntasar, cioè il Mahdi, il Messia atteso, colui che verrà alla fine del mondo a riportare la giustizia sulla terra e a creare il mondo della giustizia e la società della giustizia sulla terra, cancellando i mali, cancellando i dolori, la morte, le guerre, uccidendo l'anticristo, colui che sarà l'anticipatore, l'araldo della fine dei tempi. Quindi, il fatto che gli sciiti credano in questo nascondimento dell'imam e il fatto che l'imam debba ripresentarsi, riproporsi, rivelarsi in un prossimo futuro, che naturalmente è conosciuto solo a Dio, fa sì che gli sciiti vedano la storia in una prospettiva teleologica ed escatologica, in una prospettiva che è proiettata in qualche modo verso il futuro. Per i sunniti avviene una cosa completamente diversa. Non sono in grado in questa sede di, magari se poi vi interessa, come si diceva prima, posso rispondere a delle domande se volete degli approfondimenti su questo discorso, ma non sono in grado di narrarvi il processo che all'interno dell'evoluzione del pensiero politico e dei fatti, degli accadimenti politici della comunità musulmana maggioritaria sunnita hanno condotto a questo risultato. Però tendenzialmente la concezione della storia dei sunniti è una concezione che io chiamo di utopia retrospettiva. Cosa vuol dire utopia retrospettiva? Vuol dire considerare l'epoca del profeta e l'epoca soprattutto l'epoca del profeta, ma anche l'epoca dei quattro califfi immediatamente successivi al profeta, quelli che vanno sotto il nome di califfi ben guidati, Abu Bakr, Omar, Othman e Ali, come un'epoca di perfezione, cioè come un'epoca in cui si sarebbe realizzata nel mondo e nella storia la volontà di Dio e avrebbe veramente regnato la hakimiyya, cioè la sovranità di Dio. Dopo questa realtà perfetta del passato, il mondo ha conosciuto una sempre progressiva e continua decadenza. Una sempre progressiva e continua decadenza. Per cui l'utopia non è un non luogo, utopos, no? Non luogo. Ma l'utopia è qualcosa che ha avuto precisamente un luogo e un tempo, cioè la Medina dell'epoca del profeta e il tempo dell'epoca del profeta e dei califfi ben guidati. In riferimento a questa utopia, che non è un non luogo, ma che fa riferimento a un luogo e a un tempo ben determinati, c'è una prospettiva, scusate il gioco di parole, mi viene male, c'è una visione retrospettiva. Cioè bisogna, per costruire, detto in brevi parole, per costruire il futuro bisogna guardare all'indietro. E questo naturalmente è una concezione che da un certo punto di vista di visione occidentale potrebbe essere considerata una concezione distorta, perché in effetti c'è una prospettiva in qualche modo distorta della storicità in questa visione di utopia retrospettiva. E la visione di utopia retrospettiva porta i movimenti islamici radicali a proporre il ritorno al califfato. Cioè i movimenti islamici radicali contemporanei, sia quelli moderati come i Fratelli Musulmani, sia quelli che hanno scelto il terrorismo come Al-Qaeda e le organizzazioni in qualche modo affiliate o germinate da Al-Qaeda, guardano alla perfezione dell'epoca del profeta e alla perfezione del tempo dei califfi come a un'epoca che deve essere rinnovata e restaurata. Quindi l'utopia retrospettiva che diventa modo per costruire il mondo contemporaneo. Da questo punto di vista c'è però un discorso da fare che è molto importante e che coinvolge il problema della modernità. Cioè, quando i musulmani radicali contemporanei prevedono nella evoluzione futura della storia la possibilità di realizzare lo Stato islamico, non assumono una posizione, diciamo tra virgolette, secondo i nostri schemi, una posizione medievale, bensì assumono una posizione del tutto moderna. La rivendicazione dello Stato islamico è una rivendicazione moderna perché, e qui dovete ovviamente credermi sulla parola, nel senso che non ho tempo per dimostrarvelo, perché nella evoluzione della prassi e del pensiero politico islamico classico non si è prodotto lo Stato islamico, ma si sono prodotti modelli islamici di Stato. Perché lo Stato islamico è collocato all'interno dell'epoca di Medina, del profeta ed eventualmente dei ben guidati, ma essendosi poi verificata una decadenza progressiva dello Stato islamico, i teorici politici non hanno più potuto proporre stati islamici nella teoria e nella prassi, ma hanno dovuto proporre modelli islamici di Stato. Cioè tentativi, modi di governare la modernità e l'attualità secondo principi, secondo schemi islamici. E quando in età contemporanea voi vedete i fratelli musulmani nel mondo sunnita rivendicare la democrazia islamica, cioè rivendicare attraverso alcuni concetti del pensiero politico classico, come il concetto di consultazione, il concetto di consenso, una versione della democrazia che non è la versione dell'Occidente, come diceva Silvia prima, quindi trovare nuove strade anche di declinare e di formulare concetti che sono tipicamente occidentali, come il concetto di democrazia. Quindi quando voi vedete i fratelli musulmani o gli esponenti della cosiddetta Wasatiyya, cioè della via mediana all'interno del movimento islamico contemporaneo, come Mohammed al-Ghazali, come Kamal Abu Magd, come Mohammed Salim al-Awwa e altri esponenti di questo genere, che parlano e propongono un concetto di democrazia islamica che fa riferimento alle fonti originarie del pensiero politico islamico, e questo lo trovate nel mondo sunnita. Esattamente come quando trovate nel mondo sciita un Khomeini che in Iran impone e gestisce la velayat e faqih, cioè il vicariato del giureconsulto, per sostituire l'imam nascosto nelle funzioni politiche, voi avete degli elementi di modernità e non degli elementi di medioevo. Perché quando Khomeini propone una repubblica islamica fondata sul principio del vicariato del giureconsulto, propone una categoria politica del tutto nuova e del tutto originale all'interno del pensiero politico sciita. Esattamente come quando i partiti politici sciiti, partendo da Hezbollah, come esempio peculiare di partito politico sciita militante all'interno del mondo arabo contemporaneo. Questi partiti politici sono partiti politici nuovi e moderni, non solo perché utilizzano gli strumenti di comunicazione di massa, non solo perché utilizzano la propaganda e sono estremamente abili nella comunicazione propagandistica, non nel senso positivo del termine, cioè della dawa, della propaganda del proprio messaggio, ma proprio perché essi vanno contro una tradizione di quietismo che era caratteristica del pensiero politico sciita. Quindi sia nel mondo sunnita sia nel mondo sciita voi vedete che i tempi della storia sono dei tempi rivolti verso la possibilità e la capacità di o il tentativo, perché poi non è detto che questi tentativi abbiano successo o vadano a buon fine, ma sono comunque dei tentativi di leggere la modernità partendo da concetti che sono anche mutuati dall'Occidente, ma rivedendo questi concetti anche mutuati dall'Occidente secondo i principi e le caratteristiche fondamentali della tradizione del pensiero politico islamico. Quindi da questo punto di vista voi avete veramente la determinazione dal punto di vista storico e venemenziale, ma anche dal punto di vista storiografico, perché poi facendo storia si fa contemporaneamente anche storiografia, nella misura in cui quando si fa storia si riflette anche su quello che si fa, il mondo islamico sta cercando di andare verso una direzione di alternativa rispetto al mondo dell'Occidente. L'ultimo punto, che siccome sto già parlando a 35 minuti non svolgo, ma vi getto lì semplicemente come amo a cui si potrebbe abboccare, l'ultimo punto è l'applicazione della categoria di storicità allo studio del Corano. C'è un'ampia tendenza nel mondo intellettuale islamico contemporaneo a leggere il Corano in chiave ermeneutica. Quando parlo di ermeneutica intendo l'ermeneutica di Gadamer, intendo l'ermeneutica di Heidegger, intendo l'ermeneutica di Betti, di Emilio Betti, che è un ermeneuta italiano che si è occupato fondamentalmente di problemi giuridici. C'è un'ampia sezione, un'ampia corrente all'interno del mondo islamico contemporaneo, da Mohamed Arkun, un algerino che vive in Francia, a Fazlur Rahman, un pakistano che è morto una ventina di anni fa, fino a Nasr Hamid Abu Zaid, che è un egiziano che vive in Olanda, il tentativo di rileggere il Corano attraverso degli strumenti di ermeneutica, e voi sapete che l'ermeneutica porta con sé inevitabilmente una dimensione di storicità. Quindi qui abbiamo, è caratteristico naturalmente che la maggior parte di questi pensatori non viva nei paesi d'origine ma viva fuori dai paesi d'origine, perché questo tipo di approccio ermeneutico e storicistico al Corano è un approccio fortemente contestato dalle correnti tradizionaliste all'interno del mondo islamico. Però è una via di lettura del Corano estremamente feconda ed è una via che deve essere battuta, che deve essere percorsa e che sarà percorsa inevitabilmente dalla maggior parte dei musulmani, prima o poi dovrà accadere, perché bisogna distinguere ciò che all'interno del Corano è messaggio universale da ciò che all'interno del Corano è messaggio storicamente contestualizzato. Per esempio le punizioni fisiche nei confronti degli adulteri o nei confronti dei ladri. c'è una tendenza a contestualizzare giuridicamente, storicamente, queste prescrizioni del Corano, perché naturalmente solo in questo modo si può evitare di far tacere Dio, perché sennò sembrerebbe che Dio abbia parlato soltanto all'epoca del Medioevo, all'epoca del profeta a Medina. Queste tensioni intellettuali, storiche e storicistiche all'interno del mondo musulmano sono in parte, come ho cercato di dimostrarvi, alternative al modo di pensare dell'Occidente. D'altra parte, è importante sottolinearlo, sono delle tendenze che ancora non sono arrivate a una conclusione. Il mondo islamico sta vivendo una fase di transizione e di crisi e noi dobbiamo attentamente studiare, soprattutto quelli come me che lo fanno professionalmente, questa evoluzione interna, questa drammaticità interna del mondo musulmano per capire quale sarà il ruolo che il mondo musulmano avrà nella storia del mondo, un ruolo indubbiamente alternativo rispetto a quello dell'Occidente anche in un prossimo futuro.